cambiamo, su, su, su, su, cambiamo. Zucca, zucca, zucca. Vabbè, Emanuele. Oh, Marcolino, cioè, un attimo, lasciamo vedere, 2 minuti, e così mi ha fatto come preparo dopo, che devo andare alle 5, ci devo rientrare. Ero in cucina, mi stavo mettendo a posto la spesa, c'è caldo anche in moto, un bel caldo c'è, sì, è un po' più ventilata, però grazie a Dio a uscire solo in camicia e col corpetto, vabbè, con lo smanicato, è un bel ricaggio. Sai cosa mi ricordi quando dici su camiamo? Quello delle giostre, quando faceva salire le persone, no? Lo speaker delle giostre. Via, bello, davvero, sì, diceva così. Pensa che devo ancora cucinare, vabbè, faccio una cosa veloce, tanto io già sono schiappa in cucina, non è che posso fare roba da chef, no? Ma sei capace a cucinare, Marco? Oh, sì, capace, ma cose semplici, cioè, vabbè, se prendo un libro di ricette, seguo le istruzioni, magari sì, però non ho fantasia in cucina, per me basta che sia roba veloce e ci siamo tolti il dente, capito? Ah, è bello. No, io grazie a Dio già mi arrangio, là. Non sono uno chef, però già mi arrangio. Sì, oh, certi uomini sono messi male davvero, guarda, certi uomini non si sanno fare il caffè. Io mi ricordo che noi avevamo uno zio dell'antichità, Dio Salvatore, tu pensa che questo ha fatto la prima guerra mondiale come guerra, no? Quindi, o dico, un soldato qualcosa la impara. Beh, per fare le uova fritte ha messo 3 dita d'olio, ha fatto bollire l'uovo nell'olio, uno schifo. E l'olio, e quando mai ci vuole l'olio quando fai le uova fritte? E cosa ne gioco? Ma io col dito, giusto col dito, lo passo sulla padellina, tanto per, è già antiaderente, ma per farlo ancora più antiaderente, o più umido, col dito giusto lo passo, e lui invece ha messo roba di 2 o 3 dita d'olio, l'ha visto mamma quando era bambina, che schifo, non sapeva farsi il caffè, questo è un uomo che non si sa fare il caffè, ma questo è il soldato, dove l'ha fatto? Ah, boh, mi sa che quello ha fatto la finta di fare il soldato. Dio mio, a parte l'uomo non ci devi mettere olio, ma hai messo in vita mia olio per fare l'uovo fritto, c'era già di sé il suo coso di olio. No, io sì, perché certe volte mi trovavo a utilizzare, sai, padelle un po' vecchie che avevano perso l'antiaderente, no, proprio ne è uscito tutto, io mettevo col dito, cioè mangiavo la punta del dito dell'olio e lo passavo uniformemente e mettevo l'uovo subito. Ma è una cosa infinitesimale, mi praticate come che non ci sia. Vabbè, Emanuele, se non ci sentiamo più tardi, buon lavoro, buon tutto. Io adesso mi dedico all'arte culinaria. Dai, io intanto mi preparo qualcosa per portare al lavoro, poi dopo di che mi preparo, che alle 4:30, quasi 4:20, quasi un quarto, ci parto da qua e ci devo uscire a Fiumesanto, pensa tu. Vabbè, comunque se hai la macchina personale è una grande cosa. Pensa chi non ha macchina personale, deve andare a lavoro, deve chiedere un passaggio, pigliare pullman, autobus, un casino. No, io sono la macchina mia. E come faccio il pullman? E come fai il pullman? Ci vuole la macchina per forza lì. E niente, adesso ieri ho ordinato le gomme. Le gomme, martedì così va. Me le montano perché erano terra a terra un po' davanti. E poi ce la usi poco, magari prima, magari quando non lavoravi la usavi molto meno, e a stare ferme un po' nella stessa posizione gli fa male, io ogni tanto infatti la muovo di pochi centimetri, capito? Poi le gonfio, c'ho tutto in macchina, c'ho il compressorino per gonfiarle, tenere d'occhio la pressione, un po' di roba c'ho, kit di paragomme, cavi, di tutto c'è. Va bene, ciao Emanuele, di nuovo, salutone, ci sentiamo quando capita, ciao. Ehi, Marcolì, dai. A proposito, Marcolì, non è per caso c'hai per le mani qualche TV per macchina, per mettere in macchina? Quelle TV, cioè che si collega al telefono? no, le cose funzionanti le abbiamo ottenute, tutto il resto l'abbiamo buttato, erano vecchi tubo cattolici, come erano 20 pollici, 22, non mi è rimasto niente. Poi sai cos'è, io ormai se voglio vedere la TV in macchina, cioè uso lo smartphone e mi metto o Mediaset Premium, Mediaset Play, l'applicazione, oppure quell'altra, Rai Play. E praticamente ho vedi tutti i canali Rai e tutti i canali Mediaset. Ormai il televisore non ha nemmeno senso, quei televisori portatili di una volta, ti ricordi, quelli da campeggio. C'è l'applicazione, l'importante è avere credito, cioè i gigabyte disponibili. Col tablet poi non ne parliamo, col tablet è più grande, lo schermo è un bijou, sembra un televisore. Sì, è quello, io lo sto cercando, quelli normali, televisori senza giga, senza collegata a internet, televisori di una volta. Perché cazzo, se io sto lì ogni giorno a usare il giga, quanto ci vuole di... Non mi bastano i 100 giga che ho. Certo, se per tante ore sei lì, magari ti spalli lì, poi di notte non succede mai nulla lì, cioè devi passare ore e ore, ti capisco. Ma non c'è un wifi condiviso che i dipendenti o chi lavora lì lo può usare, no? Ma sai dove sono? Io sono, adesso non so se sei pratico di Strintino, ma tu lì. Questa è sulle strade di, sulla strada di Strintino, come è sempre che ci sono i lavori in corso, le strade, ci sono le ruspe, trivellatrici. Ah, ma quindi non sei nemmeno in un ufficetto, in un gabbiotto, sei praticamente, ho l'aperto in macchina, così è, per quello che lo volevi. Sì, io sono fuori, io sono lì all'aperto, magari se ero stato nel gabbiotto mi avrei portato il televisore a casa. Ho capito, Meia, ho capito, è solo che un televisore normale, Emanuele, come lo alimenti dentro la macchina? Se fosse un televisore normale piccolo come quello in cucina, mi pare sia un 14 pollici, devi mettere l'inverter in macchina per trasformare da 12 a 220. E per 12 volt, io alla CDC io ce l'avevo, però adesso ormai no, non servono più, perché col decore, anzi ci vuole il decore o non vanno più, perché c'era anche mio fratello che me lo voleva dare, però col decore, però non è più, non vedi più niente, devi avere quei decori HD, come boh, non lo so. HVC, sì, quello H265, il nuovo codec. È un casino, eh. E se no cosa ti potrei suggerire? Poi conta una cosa, però, anche avendo un televisore, anche con le coderino incorporato, l'importante è che la zona sia buona, perché se no con l'antennino ricevi poco niente. Cioè, se la zona non ha colline e abbastanza aperta magari ricevi. Però se comincia a essere tra o montagnette o colline, cioè dovresti avere il ripetitore a portata ottica almeno, dai, per prendere bene. Sì, vabbè, portate per qualche canale, non interessa niente, se non prende non prende, portate che prende qualche canale, di sicuro dovrebbe prendere. Però ci sono quelle antenne apposta per il segnale, se li metti fuori come l'antenna in baracchino, cioè l'adattatore che mette l'antenna fuori. Ah, quelle preamplificate, è vero. Tu pensa che, allora, quando c'era l'analogico, io avevo, era praticamente nuovo, usato pochissimo, c'avevo un televisore a cristalli liquidi, avrà avuto 3 pollici, 3 e mezzo, quelli da taschino, stava in un taschino, con la sua custodietta, con le sue pile. Purtroppo, come è diventato digitale, vabbè, un bel di anni fa era, me lo sono sbattuto al sedere, a culo me lo sono attaccato. Sì, non servono più a niente, infatti, non servono più a nulla. Peccato, quindi, usato 3 volte, 2 o 3 volte, lo usavo quando andavo a pesca la notte, quando andavo, adesso chi ne ha più voglia a pigliare freddo. E vabbè, pazienza, la tecnologia va avanti e nulla la va. Se no, Manuel, sai cosa ti potrei suggerire? Però lo dovresti comprare. Hai presente quei lettori portatili DVD? Tipo avrà 10 pollici, il lettore DVD portatile, però che abbia anche il digitale terrestre incorporato. Guarda, li faceva la Majestic, forse anche qualche ditta tipo... o Toshiba o Panasonic. Solo che se ti interessa la TV lo devi trovare col sintonizzatore digitale incorporato, però che sia anche aggiornato, cioè che riceva l'HVC, se no non vedi nulla, o quasi nulla, da, perché ancora qualcosa la vedi neanche col televisore vecchio. Ok, e se no male che vada ti portavi dei film da casa, dei DVD e ti guardavi quelli mi. Oh, yeah. Vabbè dai, vedo un po' se riesco a trovare, beh, se no si va per le luci. Qualcosa mi guardo al telefono, vuol dire. Va bene, dai, Marco, io. No, a me mi interessava guardare la TV normale, senza collegati con i giga o senza consumi più giga che altro. Niente, dai, si troveranno. È da trovarli, dove però. Vabbè, ci sentiamo, Marco, dai. Buona serata, dai. Sì, poi vabbè, questi televisori con lettori DVD credo che ormai siano in disuso, cioè il DVD è obsoleto e poi da quando hanno fatto questo aggiornamento io in vendita credo di non averne più visto, perché sai, li devi aggiornare anche il decoder lì, se non è aggiornato poi non vedi i canali nuovi in HD, è un macello. Ne vendevano pochi e niente, pochi e niente. Il mercato era quasi azzerato per quei lettori col sintonizzatore TV, dico. Ok, ciao Manuel, di nuovo, dai, così metto a cucinare. Ciao, ciao, buonasera. Ciao Marco, ci sentiamo, dai. Se in caso è domani dovrei essere di riposo, penso. Se in caso di ci sentiamo domani. Vabbè, dai, ciao Marco, buona cucina allora. E buon tutto, dai, ce la riascoltiamo. Scusi, c'è qualcuno in ascolto? Girai il coso. CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Franco, California, capo. Catalino, capo. Che ti ha fatto prima, capito? Tutto muto qua, bubu, oia. Mi sa che ma domani ti accorgi che dai un esempio. Lo so, ma ascolti, quello è che ti fa avere la porta di entrare e non puoi entrare. E sempre mi accusa il guerremmi nuovi, vabbè, ma che guerremmi io ascolto che ce l'ho basso. Ma mi sa che non c'è neanche propagazione. No, non ce n'è, perché sono andato io poco fa e non c'era nessuno. Sono andato su 27555, non c'era nessuno. Ehi, capo, attenzione, Franco. E chi era questo qua con le colche? Che avanti. Marco Corno, tu sei... No, non è Marco Condo di questi. Ma c'ha quelli col checco. Ma questa è la ghetta, aspetta l'elicottero, no, capisti? Vediamo così, capo. Ma questo che cos'è? Non ce n'è, capparoggero. Ce n'è meglio di quelli. Io ho un microfono che va all'infinito. Quando ti chiamo ti va all'infinito. Aspetta che lo attacchiamo. Aspetta che l'ho messo, adesso non mi ricordo se è sul... Su nessuno perché lo sacca. Perché l'abbasso va. Così ce ne dovrebbe essere appena. Questo che apparecchio è? È un 48. Ma c'è questo. Che ho fatto, l'ho preso già pronto per fare un po' di ciabotto. Quindi andavi nel canale 45. E 80 sotto, 80 sopra. Vabbè, per l'ascolta regolabile, disinseribile, poi mic gain, attacca e stacca, capito, quello rubivati, eccetera. Di quelli ne ho avuto tre io. Ne ho uno con la calamita che si staccavano tutte le modifiche. Passavi la calamita davanti e si staccavano le modifiche. Io ne ho avuto uno simile, non posso dire che mi ha adatto, però la calamita era sopra nel coperchio. Sì, sopra la passavo. E magari allo stesso apparecchio. Sì, la passata che infatti sopra era tutto consumato, forse abbassare la calamita, poi la bucaniera che voleva Sant'Antonio. No, non era nuovo, non era consumato. Ho avuto quello, poi ne avevo fatto modificare uno mio, ed era uscito benino, andava bene. E poi un altro me l'ha venduto il re di questi apparecchi, me l'ha venduto e l'ho venduto a un artista di Olbia, me l'ho venduto bene anche, 4,5. Buono. Ma era bello, era fatto da Lumacore, quello lì era tutto stilizzato, cioè era bellissimo, tutto con le manopole illuminate, azzurre, il coso, lo Smith era azzurro, bellissimo era. Sì, questo quando moduli c'ha il LED blu e la portante bianca, capito? Praticamente il LED della stazionaria, quello di sopra, l'hanno cambiato, l'hanno collegato alla modulazione, capito? Già si possono fare, solo che io lo usavo in macchina, andava benissimo, non bene, benissimo. Parlavo da portatore, parlavo con l'alghero, immaginati, che certi portatori se l'alghero non ce la fanno arrivare. E io dalla macchina parlavo. Però poi dopo che ho finito di lavorare in casa prendeva troppi sprat, lo faceva tenere, l'ho venuto per quello, se no era un bel apparecchio. Infatti, sì, vabbè, in macchina sbatte che piglia, non vedisci uno già, così che adesso è comodo uno di questi in macchina, perché con questo tipo di eco così ti sento, capito? Adesso sono agganciato, e questi sono i suoi watt per apparecchio. Io ce l'avevo così, però era 120 sopra, 120 sotto. L'FM l'avevano escluso per attaccarci la scheda dell'eco, forse. E comunque pompava forte, il mio andava bene. E poi c'avevo il microfono normale e pompava di brutto. Adesso quel microfono lì l'ho messo nel magno e pompa più di quello originale. Questo è inuito, il microfono normale, è un microfono normalissimo, ma qua nel tastino dell'FM hanno messo i canali, appunto, quando vado su va nel canale su, poi in quello della NLP c'è il canale di sotto, lampeggia per farti capire che sei con i canali di sotto, eccetera. Avabo, attenzione, Franco, California, che ascolti qua, dopo. Franco, California. Furia ne ha uno, me ne hanno dato da poco, l'ha comprato, però ho veduto così una cifra irrisoria, l'ha preso, ma dice che non se ne fa nulla. Lo so, ma non è come questo, me l'ha detto, ma è colto, capito? Lui vuole questo, lui si è innamorato di questo, cappa. L'eco si può regolare meglio. È al minimo. Così è chiuso. Perché prova a dire Roger Canagava. Allora, guarda, così a zero, così a metà. Canagava! Sì, adesso si sente perché ti dico. Adesso non so, ma si sente. Cala! Devi aumentare il volume. Cosa? Il volume deve aumentare dell'eco. Si sente l'effetto elicottero come basso basso. Guarda, adesso vedo un po'. Ah, usci troppo, così ripete troppo. La metà infatti, così va bene secondo me. Ci mette a valore 11. Così a metà, così alle 11. Non credo che cambi tanto. Non è che cambia molto, ma la regolazione che c'è qui era alle ore 11 e andava bene. Questo è il marketing, così a metà e così a minimo. Aspetta un attimo che cambio il microfono, così mi dici se sto facendo meglio con questo o con l'altro. Attento Luca! Se non ce n'è, ecco! Ecco! A voi Luca! Così è il reverbero, sì, sul reverbero già. Ma è regolabile, guarda, adesso c'è il checco, basta. No. Abbai da Como! Ma adesso sì. Cava cava. Come va meglio questo qui di microfono o l'altro che c'avevo? Ma anche questo va bene, l'altro mi sembrava più forte, perché questo l'eco è basso come volume. Guarda, attenzione Luca, cambio. Avanti. Devo regolare, cava. Ecco, voi, Luca, e all'infinito. Sì. Va bene anche questo, vero? Grande. Questo l'ho fatto io il microfono, capuccio l'ha cambiata, cambiato il filo, tutto quanto l'ho fatto diventare un microfono signore. C'è anche l'MC100. Cosa? C'è anche l'MC100. Tu? Quello di tavola, con lo strumentino, l'eco, il beep. Ma l'MC100 è troppo ingombrante. Grande infatti. E poi vabbè, 60 c'è nella Yaesu e l'MB+4 che avevo riverniciato nel 7003. Peccato che non manca la mascherina questo MB+4. Adesso l'ho messo l'altro, guarda come va. È più forte. Più forte questa. Ma non è più pulita questa, vero? L'altra. Ma questa è fatta, aspetta, mi sta chiamando il vicino. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno. Attenzione Luca, sì, cambio. C'è qualcuno. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna, città di Sassari, fa chiamate, si sintonizza l'ascolto. Brecco. Hola, attenzione, canale 10. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno. Sta passando a pensare sui come al mio vicino. Questo è un po' che fammi da. Aspetta, adesso sono con lui, scommesce? Forza di radio. Massa? No, forza. Ah, ho capito, massa. Tanto che è strano. È un bel apparecchio lì, Castello Nuovo. Non so. Bellissimo, ma ci vuole troppo spazio purtroppo a tenere. E vai, c'è solo lo spazio. l'infermobile è fatto apposta per metterci tutta la stazione in base. Ah, anche io c'ho lo spazio, ma tanto la posizione qui si tratta. Sì, quello già è vero, oggi sempre è quello che ti piace di più. Ne ho anche superiori, però io il Galaxy lo adoro, mi piace il gruppo. Grande, caro, troppo manno, Cosa? Troppo grande, Sì, grande, quanto il Galaxy, non è che sia molto grande, anzi, più piccolo, è appena appena più corto del Galaxy. Non è tanto grande, dai. Qua ci sta la grande, ci avanza lo spazio da una parte e dall'altra. Quelli sono belli modificati. Fatto l'elicottero con le robe lì, tutto disinseribile. Allora sì, che c'è due in uno. No. Quegli apparecchi lì oramai sono fuori moda. Non è più nessuno. I camionisti se ne stanno disfando perché c'hanno il telefonino e non li usano più. Oppure c'hanno Paltalk. Sì, dopo che è data non ti chiamava. Un momento. Sempre col cellulare. Io l'avevo scaricato una volta. Ma una bucarina, una chat, Ravini. Parla Luca, devo regolarti la modulazione. Vabbè, vediamo un po'. Papà, allora Gianni si ascolti. Buona notte, papà. Bravo, microfono. E tu li stavo regolando il tono, adesso l'ho messo al centro, va bene, era troppo cupo. Stavo regolando il tono della voce tua. Capito, questo è bello perché si può regolare. Ma Marcolino, no? Con il nigeriano se ne sta andando in giro. Aspetta, cosa? Marcolino. Marcolino Conde. È entrato, non lo so oggi, forse è stata a Girella. Sta girando con le nigeriane. Ormai è andato, l'abbiamo perso. Vabbè, quando si ha secco è così. Poi ci chiamano razzisti pure. Io sto bene così, non è voglio di nigeriano, mai visto, mai voluto, mai andato a prostituire in vita mia. Se no io, quando andavo a me a pigliare i bauguri, quando si mettevano dietro il distributore, il prototore, se lo ricordo. E io a voglia. Una volta stavo andando ad Almero, ero con un'amica in macchina, anzi la mia fidanzata, era non la vecchia mia. E questa qua appena si è tolto il seno di fuori e me l'ha appoggiato al parabrezza. Di chi si è barriato? Ehi, tanto è un bogomagno, puccese. Comunque, il genese non ha nuda, chi ce n'ha troppo? Ehi, ti sto dicendo, quella è la mia ragazza, che ha detto, ma cosa a voi? E mi ha detto cosa? Dai, ma così mi baga, etta. Ce n'era una che la chiamavamo Poppea. Siamo quelle via 25 aprile, te le ricordi? O mi sei via le lande? Ma siamo venuti all'astra. Sì, me le ricordo, sì. So che chi le portava lì via le lande, c'era uno che faceva il CB, le portava. Sì, ma se sai viene un bel... Ce n'era un bel assassino lì già. Sì, era di Savionda, aveva 25 aprile con l'aso lungo, da lui c'era Marinella, c'erano diverse, dai. C'erano diverse. Ma adesso sono tutte giovani. Io l'altro giorno sono a Talmero, sono passato da Santa Maria, sono sceso giù, erano tutte giovani, tutte ragazzine, 18-19 anni. Anche per Daniela veniva un bel... perché non c'è controllo, si vede che non c'è controllo, perché... Noi andavo a vedere il giro, chiamavamo Puttantur. Era sacco, dammi la sacco. Sì, meglio, quella era bassa. Beh, certo con la Mariana era uiuia. Chissà se mai la bassa è morta. Non può mi sapere. Una volta mi ha detto, caro vieni, io non lo conoscevo, questa vettura si è fermata, dice ciao caro, posso farti passare una serata di fuoco con me? Vai per la benzina allora. Una volta l'avevo ai giardini pubblici, abbiamo intervistato questi lì che c'erano, che battevano lì. Io ho abbassato il microfono, c'era il microfono amplificato, ho fatto ascoltare la frequenza. E questo qua ha detto, ciao, ciao bello, posso venire insieme a te, non so che cosa, vai tu. E tutti, no più lui, ma che cazzo, ci combinavamo prima. Ma senta che prendendo sui birra, vedi su qualche cosa. E poi la tua voce bassa, non si compra di nulla, ti mangi di barà. E se però sui birra, se c'è qualche cosa, qualche messaggio, no, non c'è niente. Ah, ma quello non è gana di venire nulla. Quello che vuole di vendere si fa vivo, si fa presente. 2,90, sempre 2,90, una mazza. Che la gara è che la gara, e ne c'è, ne c'è, lei, non ne ho rifletto. Il 757 non ti piace? Non mi piacciono quelli, mi piacciono i chiedoli. Ah, 757 già c'è il suo fascino, dai. Le cromature. Ma poi di radio non esce mai come il chiedo. Ah no, quello no. Il chiedo esce meglio, il 27 per poco di fa. Dopo devi passare a quello di missili. Va, già, dopo di stufi. Anche quelle... perché se si è fatto così di collo? Perché è vicino al microfono. Creava... No, con il microfono con l'ecco, cioè col baracchino con l'ecco, non è microfono. C'era anche io l'ecco nel baracchino, nel Galaxy, nel Cobra. Allora il Cobra, se metti l'ecco con la cassa vicino fischia. Allora questo l'ho messo un potenziometro dietro per regolare il parlascolto, capito? Perché sennò era troppo forte e dava fastidio anche. Termanium ce l'ho davanti io, la regolazione del parlascolto. Lo regoli da davanti, ci sono le manopole, giri e lo regoli. Per ascoltare più forte, però una certa potenza poi fischia. Perché fa rientro. Ma infatti, ma si sente bene, regolato si sente bene, non è basso, si sente abbastanza bene. Comunque Vinelli, c'è anche un 680 in vendita, l'hai visto? Ma la vedi di tutto. E questo chi è? Natalino vestito da prete. E perché vestito da prete? Perché ha la voce cattedrale. Vabbè. Beh, c'hai il checco, c'hai, sembra in chiesa. E un parecchio era lì, quello lì. Quello che sto usando. Esce bene, esce. Sembra l'ecco, c'hai. E sto usando due va. Si sente il pianoforte. Ma lo stesso del pianoforte. Sono diventato amico di Giulio. Certo, la tetta del pianoforte di Diego. Oh, yeah. Lo supera, davvero lui. Ed è basso, anche le MB4 l'ho messo a 3. Ma lì la stanza è piccola e quindi prende tutti i rumori. Prima stavi uscendo bene, si capivano bene le parole, adesso sei troppo basso. Ti devi avvicinare più il microfono lo devi mettere di lato, non davanti, lo devi mettere di lato. Oh, fa con la tapparizia, questo è il MB4, ma siamo troppo è brutto questo. Questo è l'MB4, guarda adesso va bene. Neanche uno. Arriva nel cupo, buona la voce, è vero la tapparizia. Ma il mio così cupo è. Cos'è questo? No. Un po' cupo è lungo, non si capisce bene. Ma come fa a faccia il mio verde? Mettere, aspetta, abbassa il volume. Guarda che ha abbassato. Vedi, adesso va bene. Aspetta, un attimino, vediamo un po'. E prendo questo 7003, che è... come se il mio MB4 è una 7003. Però, mi sa che ci provo un altro microfono. Marattolosa, rimane un po'. Sì, non è molto chiara, allora, comunque già si può capire. Ma l'hai messo quell'apparecchio là? Guarda adesso già con l'equalizzatore inserito. E adesso te l'ha chiarificata un po'. No, nel 1200 il 60 collegato. Se non cambiare le connessioni, allora ho messo l'MB4, ho fatto un paio di controlli con Giulio, mi aveva detto, mi aveva regolato Giulio, solo che e sposta il microfono ogni volta, magari vado a toccare la rotellina, che è la rotella delle mie BP4 poi. Ma sono la doppia, basta fare in picco. Così che. Stavi strappando. Prova allontanatela, se no devi parlare più piano, se no strappi. Guarda, così sto parlando normale. Qui sei troppo basso. O è troppo nuda. Avvicinati appena appena ancora di più. No, guarda, aumento il microfono, non la distanza, se no mi devo buttare, mi devo buttare. Guarda così. Così va meglio. Perché così è poco come regolare. Poi se inserisco la modifica del microfono sarà meglio. Così c'è la modifica inserita. No, se adesso va bene. Così con la modifica inserita va bene? Sì. Perché anche qua bisogna provare il suo microfono, lo sai già. Adesso è benvenuti, eccetera, eccetera. Non si adatta ai microfoni normali. I microfoni degli altri apparecchi. Sì, si vede subito l'apparecchio quando andiamo a modulare. Scusa, certo. E poi guarda, guarda Giulio il pianista non è entrato. Come? Giulio il pianista non è entrato. No, senza nessuno, io ce l'ho poco fa. E io ho messo nei concerti, ho tutto andato. Prova a parlare lui. Stavo pensando a fare concerti adesso Giulio, da quando c'è il pianoforte, sta facendo concerti a Gogo. Così che non entra più in radio. Ma la mattina sta entrando, siamo a Puccio. E non racconta favori, sei tu che non risponde, lo mandano, il dottor Mandano, tu lo prendi? E lui ce l'hai, tu non bravo a capo entrare. È giusto anche il tuo microfono, la pazzino che su è qualità da giudizio, che fa di schifo. Ma io ho equalizzato la radio, Giulio. Sì, tutto quello che vuoi, no, comunque ti posso garantire, ciao Gianni, ciao Natalino e ciao Luca, tanto ti posso garantire che come la modulazione del K non ce n'è, non nulla va, può essere una grande radio, tutto quello che vuoi, però la modulazione del K è buco, ed è la numero uno, perlomeno il 27 che sto parlando. Che avete fatto per andare in SSB? Infatti l'unico che va bene in AM è il Kenwood e basta. Già ci sono certi che vanno bene, per esempio quello che avevo io andava bene lo stesso, però la migliore è sempre quello della Kenwood, la radio là, perché c'ha il processore. Va meglio di tutti qua in 27, diciamo. Quegli apparecchi sono fatti per andare in banda radio amatoriale. Lo so, ma comunque c'è un abisso, guarda, c'è un abisso veramente. Sì, dico, non è che vanno male, sia ben chiaro. Se ha adattato bene un microfono, anche a quello vanno bene, però c'è un abisso con la, non c'è Yaesus, non c'è Icon, non c'è quello, nessuna marca, il K è K, è buco. Avanti Gianni. E io sono d'accordo con te, sì, il K è l'unico che va bene. Sì, gli altri si adattano, ma non la radio come K non ce l'ha nessuno, c'è poco da fare. K, a proposito di K, e tu non lo sai più già? Sì, ogni tanto, l'altro giorno l'ho tolto fuori, ma niente di particolare. È troppo ingombrante, non ho spazio qua, non ho niente, non tutte le volte che lo devo mettere sul comodino, cioè, perché nel tavolino non ci sta. Per cui non mi va bene, infatti se mi capita lo vendo al miglior offerente. Vendi, scambia, questo com'è? Questo è il 1260. Sì, d'accordo, sì, a parte il fatto che con 60 è un'altra radio, no? però non arriva mai alla qualità del K nella maniera più assoluta. Va bene, comunque interessante ascoltarci, sentirsi e capirsi soprattutto, però ti consiglio di non mettere mai l'equalizzatore, perché no, cosa vuoi dire? Te l'ho detto già diverse volte. questa radio normale, semplice, è quella più bella. Vai, guarda lì. Guarda, mi sono addirittura disgustato, non ho manco voglia di entrare la sera, mi sono entrato poco fa, cioè ho acceso poco fa, perché proprio non me ne viene voglia. Okay. Io anche stamattina ho chiamato, silenzio assoluto, ieri lo stesso, ieri mattina siete entrati sia tu che lui e poi siete spariti dopo 3 minuti, ma 3 minuti veramente glielo ho già, se fosse di meno di 3 minuti, ho aspettato per più di un quarto d'ora, ma rientreranno, invece non siete rientrati e allora ho spento, non è che potevo stare tutta la mattina davanti al baracchino senza sentire nessuno, a sentire quel REM, tanto voleva ma accendessi la radio o ma accendessi la televisione. Avanti Gianni. Eppure io l'altra mattina dalla macchina ho chiamato e non c'era nessuno, non ha risposto nessuno, capito? E c'è poca voglia, poca voglia. La gente sta entrando poco. Lo so, poca voglia ne abbiamo tutti, la verità, e questo bisogna dirlo chiaro chiaro, perché ormai dopo tantissimi anni diciamo che anche se la passione c'è sempre, ma non è più quella di una volta, a stare delle ore o addirittura delle giornate quando era possibile, ad esempio la domenica, il sabato, ma oggi 10 minuti e poi ti stanchi e via, e purtroppo succede a tutti così oggi. Avanti Luca. Perché adesso ci sono cellulari, computer, anche sì, che uno fa molto sul cellulare, su WhatsApp, su Facebook, capito? Prima che cose non venano, io la mattina accendo verso le 9 così, e dopo comincio con un microfono, la vedi c'entra Natalino, però di solito anche Natalino a volte entra alle 9:30 così. Noi ci siamo da presto, Giulio, quando entri tu, noi siamo già 4 ore in radio, vedi a Natalino. Sì, infatti. Io mi ripeto a risetti, lo mandato. Vai da che tanti voi sono già stessi un burro all'otto, 8:30, non era nessuno, se per quello. Ma comunque io le chiamate se le faccio sempre intorno alle 11:15, non prima, cosa mosso? Ma capita, cosa devo fare? Devo svegliare le persone a risveglio di Manzano, ma manco mai idea. Anche perché suppongo che ognuno di noi ha le sue cose da fare, e i suoi problemi da risolvere, commissioni e cose varie, per cui va bene così. Vabbè, dai, comunque non fa niente. Quando ci sentiamo, quando non ci sentiamo, pazienza. Avanti già. Fa, quando c'è gente si parla, se non c'è gente si spegne, se c'è della radio, come faccio io in macchina. Se c'è gente, ok, se non smonto l'antenna, ascolto la radio e buonanotte, e faccio le stesse cose che devo fare. Ma, però già fa piacere, dai, passare qualche oretta così, fa piacere, dai. Sì, beh, certamente sì, non ci sono dubbi, ma non è più come una volta, chiaramente, perché ormai diciamo che ci siamo tanti anni, tutti quanti, siamo più ultra anziani della frequenza, tutti quanti, per cui la voglia è chiaro che va chiamando, no? È normale. Va bene, avanti Luca. Quello sì. Ma prima erano tutti i canali pieni, Gesù Maria, guarda, che ricordi, in Sarisi di Manzano. Prima era tutta un'altra musica, era, è ovvio, prima si restava anche sino alle 3 o 4 del mattino, e qualcuno anche faceva tutta 24 ore su 24. Io mi ricordo, c'era ad esempio Tore Chopin, quello la mattina si svegliava col baracchino acceso, perché magari durante la notte si addormentava e si svegliava l'indomani mattina col baracchino acceso, già dalla notte prima, per cui si può immaginare, ma ormai tempi che furono. Avanti Natalì. Io alle 7 del mattino trovavo gente, ma dimmi tu, avevano per più nessuno. Oh, manca a me, io stamattina sono uscito con la macchina, ma manco non mi è passato manco per la mente di attaccare l'antenna, guarda, perché stavo facendo commissioni e dovevo la macchina. Appena sono rientrato pure tardi e quindi ho subito mangiato e via, e mi sono coricato. Il casino ha già teso il dadero una stessa. Ok, deve certo. Ieri esco fuori il terrazzino e c'era un uccellino, un passerotto c'era, piccolino, che ancora non riesce a volare bene, però diciamo che sta imparando, dai. Allora ho messo un vassoietto piccolino, basso, con un po' di biscotti che gli devo tutti farinati, no? con le mani, in modo che possa mangiare, e più un'altra vaschettina sempre bassissima con l'acqua. E ho visto che anche oggi è ancora più arzillo, si vede che i biscotti che gli ho messo le sono piaciuti, perché stamattina, poco fa, ne ho messi altri, no? E non ce n'erano più praticamente, ce l'aveva tutti mangiati. Comunque sta imparando già a volare, sta incominciando a sollevarsi da terra. Vai già. Ma mangia da solo già. Beh, suppongo proprio di sì, anche perché non è piccolissimo, ma questa non è la prima volta, tutti gli anni sempre me lo ritrovo nel fagiolo o un uccellino, per cui forse si fanno il nido lì dove abito io, e poi lì scende, non riesce a volare, siccome io dal terrazzino ho un muretto prima, no? E poi c'è la ringhiera sopra, e dunque non riesce a scavalcarlo, perché ancora non vola alto, vola se no 20 centimetri, non di più, da terra, capito? È interessante che mangi, poi la madre già va, se lo prende, se la madre degli presi lo sente, se lo prende. Io una volta l'avevo trovato così, l'avevo messo dentro una gabbia e l'avevo appesa fuori, la madre andava e gli dava da mangiare, come è diventato grande l'ho liberato, e la madre tutta contenta insieme se ne sono volato, le ho aperto la gabbietta e se ne è volato. Sì, ma questo diciamo, se ancora non c'è riuscito a volare, suppongo che domani, massimo dopodomani, esagerando, vola bene anche lui, questo è, non lo so quanti giorni può avere, però ho visto che ce li ha tutte le piume, per cui, ma si vede che è piccolo, però ho visto che poc'anzi, siccome dietro e fuori abbiamo lo stendino noi, no, per stendere la roba, e ho visto che quando sono uscito, forse si è spaventato, ha dato un volo di una ventina di centimetri e ha sorvolato il piede basso dello stendino, per cui sta già incominciando a imparare a volare. Va bene, dai, comunque, fanno tenerezza, fanno, dai. Avanti, Luca. Tu dici, buona cosa, la barretta della bagna, fuga, però vai, senza la giura. Tu sei più crudele, figa. E meno male non sono cornacchio. Una volta in cortile stavo tornando con la spesa e questa signora mi ha detto, signor Giano, non è che mi fa la cortesia. C'è una cornacchietta sotto la macchina, ho paura di investirla, devo uscire con la macchina, non so come fare, ma la usci avanti giù. Sono andato a tenere questa cornacchia da nido e mi sono piombati i genitori. Mi stavano attaccando, fate tempo la porticina a chiuderla, se no mi salta Maradona. La difesa dei loro piccoli, è chiaro che ogni genitore difende sempre la propria prole, non ci sono dubbi. Va bene, dai, questo è un passerotto, no? Ma diciamo che tutti gli anni almeno uno o due me li ritrovo sempre nel terrazzino. Va bene, dai, avanti Natali. Il canarino mio invece ha ammazzato la femmina attorno, quello è un assassino, ma rimane azzurra. Anche l'altro ti ha ammazzato, Natali. Sì, si può solo di pazzesco. Lugabo l'ha piena piccata. Allora, tutta picchiata era, poverina, mi ha dato una fuffa, ma non ne ripiglio più. Avevo ragione io di non pigliarmi, chi c'è un assassino e sono bisogno. Deve essere, ma qual è quelli che mi ho preso a Porto Torres? No, uno giallo, un canarino giallo. Cazzo, ma è Maru che ti rai. Perché i canarini si devono dividere, si allevano così, si dividono. Il periodo della cova si toglie il divisore e si fa raccoppiare, perché se no la femmina magari non ci sta col maschio, il maschio la ammazza, capito come funziona? Ma chi sul manasura vai tu? L'altra volta mi ha fatto le uova, mi ha fatto, però non erano gallate. Cazzo, comunque su canarino non sono riuscito mai a fare nulla. Da marzo a settembre li devi dividere. E invece io non divido più nulla e lo da carasura. E ci rimani solo. Finta Candomuri. Candomuri tira un po' buco la gabbia, non so da. Praticamente vai un canarino battio, così è. È proprio così. Chi c'è un assassino, Canarino killer. Un canarino killer questo, lo so che fanno così. Io tantissimi anni fa ne avevo uno io di canarino che l'avevo trovato, che mi era entrato in bottega, era piccolissimo, sono riuscito a prenderlo e l'ho portato, l'avevo messo nella gabbia e devo dire che faceva anche le uova quando poi è diventato più grande, no? Faceva le uova però non lasciava niente perché era sola, era femmina evidentemente. Allora sono andato lì da Cardinale, sono andato, l'ex CB, no, quello che c'era al corso, dentro là, per le monache cappuccini, e le avevo comprato anche il compagno, le avevo comprato, e invece dopo un po' di giorni il compagno si è chito, e evidentemente lì che era la padrona di casa, si è fatta valere e ha ammazzato il compagno già. Io di morire di canarino, guardi, avevo due coppie, ho fatto un allevamento, la canarino già lo sa, ma me ne sono nati un mese, e andavano avanti, diventavano grandi, li vendevo, poi ho deciso di prendere i pappagalli, quindi ho venduto tutti i canarini e ho preso due pappagalli, poi vabbè, ho preso il terzo anche, adesso ne ho tre pappagalli di quelli che parla. I pappagalli sono bellissimi, quelli sono veramente belli, no, ma continuando il ragionamento di quell'arcillino che avevo, tu lo sai che di quanto era abituata, noi lì, io ce l'avevo su una, su dentro una cosa, una gabbia, lasciavo anche il fottellino aperto, usciva fuori questo, e volava per la cucina, volava questo, mi si posava sulle spalle, sulla testa, così, con la porta spalancata, non se ne andava, perché nella casa c'era la porta finestra, parlo della casa dove abitavo prima, e non se ne andava, assolutamente. Poi un bel giorno, una domenica mattina, l'ho trovata secchita anche lì. E se la vita, così si finisce sempre la nostra vita. No, io la verità, ho avuto molte soddisfazioni dai canarini, ne ho avuto diverse razze, diverse coppie, sono riuscito a fare anche degli incroci particolari, niente, e li ho sempre venduti, sempre, sempre, sempre. Ogni volta che li mettevo, che nascevano, li vendevo subito. Okay. Io ho un amico che abita lì, sai dove abita, Natali, tu sicuramente forse l'hai conosciuto, si chiama Sergio, si chiama, e abitava, e abita ancora lui lì, di rimpetto praticamente, confinante con la casa dove eri tu, là dove abitava Manuele e dove eri tu, lì in quella zona abita ancora oggi, e quello lì addirittura tutte le voliere ha, ne ha poco di uccellini, una cosa, guarda, strepitosa, ma tante, tante, tante. E un giorno mi ha detto, spendo un patrimonio, dice, per dargli da mangiare tutti questi animaletti. Va tutti, bene, ha fatto la voliera e ce l'ha sempre, Natali. Guarda che si chiama Sergio, abitava di fianco a dove abitava Emanuele Buonanima, è praticamente confinante con la sua campagna stesso, però di lato. Ehi, prima di entrare in campagna mia abita quello. E infatti, perché l'ho visto anch'io con le voliere, quando sono venuto da te un bel volo. appunto, ma quello è appassionatissimo veramente. Infatti quando comprava mangimi ne comprava in quantità industriale, le comprava perché giustamente. E poi come il numero di questi uccellini aumentano sempre, perché ne nascono altri riesce anche a prenderli, perché sai, abitando in campagna, e poi al richiamo degli uccellini che ci sono nella voliera ne arrivano altri già. Sì, noi siamo andati dall'allevatore che c'è a Ottava, adesso quanti ne ha, c'ha due voliere furi, c'ha questo garage enorme con un altro tutto pieno di gabbi di uccelli, ha diversi tipi, c'è diamantini, c'è canarini, te lo ricordi? Sì, Giuliziotto. Ne aveva un bel di uccelli. Addirittura dice che una volta ha aperto la gabbia e ha fatto volare un po' perché erano troppi. I diamantini, quando questo amico mio ti sta dicendo, sai quante ne ha? Un'infinità già, una cosa. Se ti sta dicendo, dice, so che spendo molto, perché spende abbastanza per mantenere questi uccelli. Però mi piacciono e poi non li voglio abbandonare. E dunque poi anche in casa li vogliono tutti, per cui è anche un'attrazione per tutta la famiglia questa voliera che hanno. Sergio Pinto tu si chiama di cognome, o Natalì, già l'hai conosciuto sicuramente? Sì, già l'ho visto una volta, tanti anni fa, non mi ricordo neanche chi è. Figurati, perché io poco ci bazzicavo lì, cioè nel senso andavo giù a Drumimi, non mi conosceva nessuno a me. In quella zona abita anche Davide, mi pare, vero? Sì, anche Davide abita in quella zona, sì, un po' più spostato però, un po' più spostato sulla destra e un pochino più su anche, in un viottolo che si sale e abita anche Davide, sì. Non l'hai più vista Davide? No, senza vedere Davide sono penso un anno e mezzo, una cosa del genere, da quando aveva chiuso, poi l'ho visto due volte, poi ha dismesso anche il negozio perché evidentemente tutto il materiale che aveva o lo aveva finito oppure se ne è disfatto, non lo so, e poi non l'ho più visto perché prima veniva e vendeva sotto banco, vendeva, capito? Ho capito, vabbè. È una scelta sua, mi dispiace perché era comodo, era lì, adesso io sto andando alla strada di Alghero, vabbè adesso si trasferisce vicino a Truni, mi ha detto, ma acqua zoe la strada di Alghero, io mi trovo bene lì, perché mi servono bene in tutto qua. Ok, bene. Avanti Luca. Ehi, no, c'è anche proprio Daneda che è molto fornito. Mi sembra di sentire un bip come quello che c'ha Carlo. Cos'è che hai sentito? Un bip come quello che c'ha Carlo? No, io bip non ne ho, No, quello che c'ha Carlo. Ah, boh, non lo so, non l'ho sentito io, non lo sento. Abbatti la tariffa. E dai signori, io chiudo le trasmissioni e vi saluto. E me ne passo in quelletti, dai, non ne ho voglia oggi, ci sentiamo alle prossime, dai. Ehi Anatali, dai, ci sentiamo, dai, anch'io sto andando via che sto andando a portare giù il cane. Ciao Luca, ci aggiorniamo, dai, avanti Giulio, ciao, buona serata anche a te. Ok, ciao Natalino, allora ciao Gianni, dai, chiudo anch'io, dai, ci sentiamo, intanto sono già le 8:10, dunque tra un po' qua si cena, per cui un po' tutti facciamo la stessa cosa, ci sentiamo. Ciao Natalino e ciao Gianni di nuovo, vai Luca per i saluti, saluto anche a te e chiudo dopo il passaggio di tutti, dai, dopo che ascolto tutti, vai Luca. Sì, chiudo anch'io intanto. Ciao a tutti, o giù, se entri già ci sentiamo domani mattina. Ok, ciao a tutti, buona serata, buona cena e buon tutto.